Allora, cominciamo. Questo Tol si chiama Il fantasma del ponte di ieri e il futuro sostenibile dello stretto. Siccome non siamo tanti e siamo mediamente informati sulla questione, io farei così, farei due brevi sintesi delle due parti della questione. Alla fine di ogni sintesi ognuno chiede le cose che gli interessa approfondire, osservare, contestare, eccetera, perché penso che sia più produttivo così che non mettersi a fare una lunga comunicazione per un audience che credo che sia abbastanza già informata su buona parte della faccenda. Allora, il ponte di ieri e lo stretto di domani. Lo stretto di Messina è una grande opera d'arte naturale, una delle più grandi opere naturali che abbiamo al mondo, ed è un trapezio che va dai 3 chilometri che stanno a nord tra Punta Faro e Punta Pezzo, i Peloritani, l'Aspromonte, e i 15 chilometri che stanno a sud tra Aliterme, che è un po' prima di Taormina, la parte siciliana, e Capo d'Armi in Calabria. È l'esito di il distacco di due terre e l'unione di tre mari, lo Ionio, il Tirreno e appunto lo Stretto. Se vi dilettate a confrontare tra video e presenza sul campo le morfologie che stanno tra i Peloritani, ma anche tra Pezzo e Faro, e le confrontate, poi fate questo confronto tra Google Map e andate poi sul campo, vedete che l'esito del distacco a distanza di milioni di anni ancora si vede, perché dove finisce la morfologia peloritana inizia la morfologia aspromontana. Questa terminologia, le due rive, non Reggio e Messina, ma aspromontana e peloritana, le usava Lucio Gambi, che è forse il più grande geografo che abbiamo avuto in Italia, e che diceva lo stretto di Messina è un'unità fisiocratica naturale. Noi oggi diciamo, anche perché lavoriamo molto sul territorio, quindi andiamo a essere urbanisti, è una bioregione metropolitana naturale. Qual è la prerogativa di queste bioregioni così dense di beni culturali e ambientali, storici, sociali, che oggi ci dettano i comportamenti che ci servono? Perché siamo di fronte a una crisi così forte, ambientale e sociale, che quello che paventavamo 30 o 40 anni fa oggi sta diventando realtà. Oggi abbiamo paura non di un terremoto come quello che è successo a Marrakech oggi, non tanto, anche se lì è la stessa storia, è la zolla africana che si scontra con la zolla eurasiatica. No, lo stretto di Messina sta in uno dei punti di conflitto più alti di questo scontro, però ancora più urgente per Calabria e Sicilia, come per tutto però il mondo. Calabria e Sicilia sono particolarmente in pericolo per questo, e la ricaduta a terra della crisi climatica, cioè il fatto che non piove più, ma quando piove, piove bombe d'acqua. Ci abbiamo i Medicane, cioè il Mediterraneo era un'area protetta che non aveva uragani, invece c'ha gli uragani, eccetera. Noi abbiamo indebolito fortissimamente il nostro territorio, che era già particolare perché era un territorio con molta poca pianura e molta asperità. Addirittura la Calabria è la regione d'Italia che c'ha meno pianura, cioè il 9% di pianura, ma anche la Sicilia è molto variegata. Quindi un territorio già aspro, noi l'abbiamo indebolito, come in tutto il mondo, però l'Italia e il sud d'Italia in particolare ha usato male quello, uno dei simboli dello sviluppo moderno, la concretezza dello sviluppo moderno, il cemento. Noi ne abbiamo messo troppo e da tutte le parti. Allora ogni mese la DG11 dell'Unione Europea fa la mappa delle zone più a rischio d'Europa per le ricadute climatiche. Quello che potrebbe succedere in Calabria e Sicilia è che vengono giù interi versanti. Se voi andate dove oggi è partito il quadro della Madonna, l'Eremo, questa basilica che sta in alto a Reggio Calabria, dove sta di solito questo quadro della Madonna molto riverito, molto adorato dalla popolazione reggina, che poi per due mesi scende in città nel Duomo di Reggio. Quella una volta era una zona in cui c'era la basilica e un campeggio e non c'era giustamente nient'altro, una zona tutta aspra. Se voi andate a vedere oggi quello che è il quartiere che sta dietro, che sta tra l'Eremo e il Camposanto a Reggio Calabria, è uno dei quartieri più densamente urbanizzati d'Italia. Ogni tanto, io sono dello Stretto, ma ho insegnato insegno a Venezia, a Firenze da 31 anni, ogni tanto gli studenti di urbanistica di Reggio, con cui pure lavoro, mi portavano a vedere quanto si era costruito ancora. Quando eravamo con Piero, forse con Nando non c'era mai capitato, ragazzini, andavamo a farci questa passeggiata a piedi, perché vedevi la campagna e la collina andando all'Eremo. Superato l'Eremo, era bellissimo, perché c'era una cresta in cui vedevi, cominciavi a vedere l'altro versante, il versante ionico. Bene, hanno costruito proprio sul versante a un certo punto. Cioè hanno tagliato la cresta con una serie di palazzi. Ma la cosa impressionante, c'era a un certo punto, aprirono una trattoria dove si mangiava pure bene, si chiamava Villeggianti là vicino. E quindi c'era la basilica, un campeggio e questa trattoria. Adesso per andare da Villeggianti vi dovete prenotare non solo il tavolo, ma soprattutto il parcheggio, perché un quartiere densamente abitato, che sembra Cinisello Balsamo a Milano oppure Mirafiori a Torino, e se non vi prendete, non potete lasciare la macchina, figurate come. Questo è quello che di cui dovremmo parlare. Come facciamo a campare nei prossimi 50 anni, nei prossimi 60 anni, nei prossimi 70 anni in sud d'Italia tranquillamente? Quindi come facciamo a affrontare questi tipi di problemi? E questo sarebbe il vero problema che c'è. Non si parla di questo invece. Questo è tutto coperto da una figurina che incombe dall'Unità d'Italia, che però per un certo periodo, che era quella di unire la Calabria e la Sicilia con un'infrastruttura, che per un certo periodo ha avuto un senso. Oggi questo senso non c'era più. Oggi noi abbiamo che su 8 persone su 10 che vanno che attraversano lo stretto sono traffico locale. E la cosa più divertente è che la componente più alta del traffico locale che cresce è il traffico pedonale. Cioè siamo noi che facciamo una riunione alle 3 a Reggio, alle 5 a Messina, alle 7 a Villa, e abbiamo bisogno di un barcabus. Non abbiamo bisogno di fare queste infrastrutture. Infatti i pianificatori dei trasporti dicevano, credevamo di studiare un'infrastruttura, da un certo punto in poi si studiava un monumento, pure vecchio come monumento, perché viene paragonato non tanto alle piramidi, cose eccetera, ma alla Torre Eiffel, oppure ai ponti di Budapest che univano Buda e Pest, tutte cose che hanno avuto un valore simbolico all'inizio della modernità. Oggi siamo in una realtà in cui voi stasera vi potete andare a vedere tutte queste cose senza spostarvi da dove siete con Google, ma atterrate, fate dire cose eccetera. Quando io studio come programma di ricerca urbanistica ambientale, sempre studiato urbanistica ambientale, però proprio mi sono imbattuto in questo discorso dell'impatto di questi grandi progetti e sono passato dalla fase in cui il grande progetto impattante si cominciava, sprecava un sacco di soldi e non si finiva, alla fase in cui si apriva il cantiere, si sprecavano un sacco di soldi e non si proseguiva, alla fase in cui il ponte ha fatto scuola, in cui la migliore per una politica e un'economia finanziarizzata, in cui si sprecano un sacco di soldi, si fa qualche carta progettuale, si fa un sacco di propaganda e non si apre, si sta lontanissimi anche dal mettere la prima pietra. In questo il ponte ha fatto scuola, perché adesso ci abbiamo almeno una decina di opere di cui si parla, di cui la bestia, la macchina, la chiamano la bestia, la macchina della propaganda di Salvini, no? L'ufficio stampa di Salvini, ci propina ogni giorno, ma che sono opere che non si devono manco cominciare. Si deve spendere un sacco di soldi, eccetera. Quindi questo è il destino vero del ponte. E la riprova è stata, c'è stato un certo periodo, il ponte era già chiuso, figuratevi, negli anni Ottanta, quando il ministero si è accorto che cominciavano, che ancora crescevano i traffici dello stretto, ma crescevano al ritmo decrescente. E questo è avvenuto nell'82 per la prima volta. Guglielmo Zambrini, con cui ho lavorato, è stato uno dei più grandi pianificatori dei trasporti italiani e europei, è quello che ha fatto i passanti di Milano, che ha fatto le cose sensate che abbiamo in questo paese quando si facevano cose sensate, le ha firmato spesso lui. Lui mi ha detto: guarda, stai attento allo stretto, perché hanno cominciato ancora, crescono i traffici, ma col segno meno. E lui pensava che la prima volta che il traffico cominciava a diventare negativo era il 92, me l'ha detto nell'82, quando abbiamo vinto i mondiali, la penultima volta. Lui mi ha detto: stai attento a questa cosa, perché tra 10 anni, ha sbagliato i 2 anni, perché è il primo anno in cui cominciano a decrescere, il 1990, cioè ora siamo a 33 anni di traffico nello stretto che più che declinare è crollato. Peraltro, quando, se voi avete visto il film I 100 passi, la storia di Peppino Impastato, quando hanno ammazzato Peppino Impastato, lui lottava contro la terza pista di Punta Raisi, perché allora la Sicilia aveva 2 aeroporti e 3 piste. Oggi la Sicilia ha 6 aeroporti e 16 piste. Il traffico per aereo per la Sicilia è aumentato non in percento, è aumentato in per mille, 3.200% è aumentato. E per quanto possano dire che andando in 8 ore da Milano a Palermo è in concorrenza con i 50 minuti in aereo, non ci crede nessuno. E anche Milano-Reggio Calabria non ci crede nessuno. L'alta velocità ha senso fino a 400-450 km. A un certo punto fecero dire a Monti che la Milano-Parigi, che sono anche lì 50 minuti di aereo, poteva essere in concorrenza con la TAV, perché la TAV poteva scendere a 4 ore. Per fare la TAV che scende a 4 ore dobbiamo avere una media di 350 all'ora, che nessun mezzo terrestre riesce a avere né ora né mai. Ma queste sono la propaganda finanziarizzata. Quando ero negli Stati Uniti, ero andato a studiare il punto urbanistica ambientale, però che è successo? Che non so chi di voi sa che a un certo punto c'è stata una crisi della politica istituzionale degli anni 80, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, perché abbiamo scoperto che il mangia-mangia era diventato un fatto di sistema. E il fatto che dovevano incassare e foraggiare i centri finanziari già allora che comandavano, praticamente condizionava le scelte da allora del governo nazionale, si è chiamata Tangentopoli. La vigilia di Tangentopoli, quel governo, nel cercare di rallentare uno scandalo che stava venendo avanti, a un certo punto ha lanciato una serie di grandi opere di grande impatto mediatico e rilancia il ponte che era già stato cancellato. Bettino Craxi rilanciò il ponte, fecero una serie di edizioni di progetti che chiusero, e io ero a Boston, però ero andato in quel periodo in trasferta proprio a San Francisco, a Berkeley, cioè dalla parte. Allora mi hanno avvisato, visto che sei là, piglia un po' di materiale e vatti a vedere un po' di cosa del Golden Gate. Allora io ho chiesto ai miei colleghi americani di portare sul Golden Gate. Ho detto: scusa, ma sei venuto a studiare oppure sei venuto a fare turismo? No, sapete, perché in Italia, un secolo dopo di voi, noi ci ricordiamo che dobbiamo fare un grande ponte. Loro mi hanno portato sul Golden Gate, mi hanno fatto una piccola lezione di pianificazione dei trasporti e mi hanno detto: sai perché hanno avuto senso i nostri ponti? Il Golden Gate è stato collaudato con gli altri ponti di San Francisco nel 38. L'ultimo grande porto americano è stato il Giovanni da Verrazzano nel 55, perché noi abbiamo preso in pieno lo sviluppo e poi il declino della civiltà dell'auto, perché quel costruito tipi di strutture non sono compatibili con il treno. Il treno ci salirà molto difficilmente e probabilmente nelle grandi campate non salirà mai. Questo me l'hanno detto nel 1990. Se voi vedete l'Akashi, che è il ponte più lungo che c'è al mondo giapponese, che è meno della metà di quello che dovrebbe essere la campata unica per aria dello stretto di Messina, era partito per essere un ponte bifunzionale e nel progetto esecutivo hanno cacciato, come mi dicevano gli americani, la funzione ferroviaria. Il più lungo ponte ferroviario che abbiamo è una campata di 1100 metri, un terzo di quello che dovrebbe essere questo qui. E per andare dai 200 metri di prima ai 1100 metri di adesso è passato un secolo più 20 anni. Ci sono voluti 120 anni di evoluzione delle tecnologie. Quindi a un certo punto, in maniera, noi criticammo già quel progetto presentato nel 92 e bastava una relazione di 40 pagine firmata da 4 persone per fargli ritirare tutto, giocata non tanto sulla costruibilità, perché non è la costruibilità, io sono un ingegnere, ma un ingegnere del territorio e dell'ambiente, un urbanista, lavoravo con altri urbanisti, ecologi, eccetera, quindi guardavamo all'impatto ambientale, bastò quello per fargli ritirare tutto. Ci furono altri anni di progettazione non finite, eccetera, finché ci fu una nuova puntata di progetto chiuso nel 2003, che noi criticammo con un libro che uscì qualche mese prima del progetto chiuso, ma perché studiavamo direttamente le cose progettuali, e anche quello, un po' più articolato, fu poi ritirato. Continuarono con altre edizioni di progetto, un progetto che è stato progettato più o meno sempre alla stessa maniera, 19 volte, con 3 volte che è andato in esito. Infatti a un certo punto correva la battuta, invece di fare la laurea, 3 colleghi in architettura, ingegneria, urbanistica, facciamo la laurea in progettista del ponte sullo stretto. Lavora sempre, non finisce mai, i finanziamenti più garantito di così. In ogni caso anche quello fu criticato, fecero una cosa più in grande, diedero la stretto di Messina ad ANAS, pisero un grande commis di Stato alla presidenza della stretto di Messina invece dello storico Calarco, direttore della Gazzetta del Sud, nonché senatore della Repubblica, della DC, grande dominatore della politica soprattutto messinese, ma anche diciamo meridionale, che riusciva a garantirsi, allora si parlava di lire, ogni anno un finanziamento tra le due regioni, i ministeri, eccetera, i comuni, circa 15 miliardi di lire. A un certo punto stabiliscono, dopo il ritiro del progetto del 2003, in seguito alle critiche, intanto avevamo fatto un osservatorio nazionale, perché era nata la legge obiettivo sulle grandi opere, sulla legge obiettivo, in cui approfondivamo una serie di opere dalla TAV allo stretto e ognuno, ogni esperto che conosceva la zona, coordinava quella cosa. Però avevamo fatto questo osservatorio nazionale. E allora fanno questa operazione in grande con l'ANAS, mettono l'ANAS, danno la Stretto di Messina all'ANAS. Dice, questa volta pensavamo noi ci furono i campeggi, no ponte, questa volta fanno sul serio. E mentre c'era questa dialettica di critica eccetera, succede questo, e succede alla vigilia della grande manifestazione, no ponte, dell'ultima grande manifestazione che abbiamo fatto qua a Cannitello, che per noi è stata una tragedia, perché un nostro carissimo compagno quel giorno è morto perché era uno che già aveva qualche problema, era grande, e morto proprio mentre faceva l'intervento, ha avuto un infarto e ci fu l'arrivo in ritardo. Che era successo? Qualche giorno prima noi non abbiamo manco avvisato nessuno. Erano successe due cose fondamentali. Da tempo mi cercava, ci cercava, eravamo io e Osvaldo Pieroni, il coordinatore tecnico scientifico del ponte, che si chiamava e si chiama, anzi non è più coordinatore scientifico, ma allora era coordinatore del progetto del ponte, si chiamava Remo Calzone. Remo Calzone era un tecnico delle costruzioni, delle grandi infrastrutture italiane, consulente del ministero, consulente tuttora, ora è ultra ottantenne, di grandi imprese internazionali eccetera, e dice, questo vi sta cercando. La sappiamo queste storie, vogliono nelle loro conferenze qualcuno che gli fa da contraltare per fare la figura di non rompere le palle. Poi misero in mezzo invece dei colleghi che stavano all'Università di Roma dalla nostra parte, fino a qualcuno che era suo vicino di casa, ha detto, guarda che vi sta cercando per darvi notizie importanti che non vogliono dare, perché sono iperprofessionali, non vogliono dare direttamente alla stampa. Andiamo a partecipare a un loro seminario a Roma e sentiamo il coordinatore tecnico scientifico del ponte che dice, noi non abbiamo questo ponte, non solo non ha mai fatto la prima pietra né la farà, ma non abbiamo mai fatto il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, a differenza di quello definitivo, il progetto definitivo ti dice qual è la conformazione architettonica di un'opera. Il progetto esecutivo ti dimostra che l'opera sta in piedi, cioè che il bullone, la vite o la saldatura tengono. E io gli sentii dire per la prima volta a Remo Calzona, coordinatore tecnico scientifico del progetto del ponte, noi non abbiamo mai fatto il progetto esecutivo perché avrebbe dimostrato l'esatto contrario di quello che doveva dimostrare, cioè che questa struttura è infattibile. Le verifiche di fattibilità sono sempre state negative. Peraltro, contro il loro parere, perché loro gli dissero è inutile fare le prove di laboratorio, avevano dei laboratori fatti, dei campioni fatti in scala elettronica, che prima hanno mandato nei laboratori italiani, poi hanno mandato nei più grandi laboratori mondiali, che sono Denver, Francoforte, Shanghai. Tutte le volte i campioni si sono rotti e ci fu una polemica, perché il presidente della Stretto di Messina tentò di dire si rompono perché in scala il campione si porta un errore troppo alto. I coordinatori, i progettisti hanno detto no, la scala è perfetta, riproducono quello che succederebbe in realtà. Dopodiché loro scrissero, allora c'era il presidente Berlusconi, scrissero al presidente del Consiglio, al ministro delle Infrastrutture, a tutti i ministri, a tutti i capigruppo parlamentari, per dire non possiamo più saccheggiare gli italiani con questa storia della progettazione che apre i cantieri. Loro erano e continuano ad essere pontisti, non contestano, prendevano atto delle nostre critiche di tipo programmatico, ambientale, paesaggistico, territoriale, economico, però continuano a essere pontisti. Loro hanno detto questa storia deve tornare dal fatto della progettazione al momento della ricerca. Qual è il problema della ricerca per la politica mediatica di oggi? Prima, che non puoi spendere 100, ma se fai ricerca devi spendere uno. quindi soldi clientelari da spargere agli amici ce ne sono molto meno. E secondo, soprattutto, non puoi annunciare che domani finisci il progetto, dopodomani apri il cantiere. Perché? E da allora, con una minaccia di querela e controquerela che poi non si concretizzò, tutte le volte che c'è il ritorno ciclico del ponte, fortunatamente però c'è stato un passaggio decisivo nel 2013, il governo Monti cancellò definitivamente il progetto, azzerò tutti i contratti e mise in liquidazione la statua di Messina. Quello è stato un passaggio decisivo che è difficile rimettere in piedi. Infatti hanno fatto un decreto per ripartire che gli è stato bloccato immediatamente dal Tribunale di Roma. Non lo dice quasi nessuno, ma il Tribunale di Roma non ha riconosciuto la legittimità della nuova stretta di Messina, non ha riconosciuto la legittimità degli attori, del General Contractor, ha detto ripresentatevi tra un anno e mezzo, cioè ottobre 2024, fino ad allora non potete fare un cazzo se non propaganda, ma che è quello che gli interessa, perché poi anche questo governo così precario, così scriteriato, non c'è una lira, quindi stanno vedendo come uscire da questa cosa degli annunci che fa il ministro delle infrastrutture, che non sa, perché non sa fare altro. Ministro delle infrastrutture però, che 7 anni fa accusava Renzi, che allora era pontista lui, Renzi ci vuole fare costruire una cosa che i progettisti, scriveva Salvini sulla Prealpina, dicono che non si può costruire. Poi quando è toccato a lui fare la propaganda, perché non ha nient'altro da dire rispetto a Sicilia e Calabria, ha ripetuto lo stesso errore. Ed è comodo, l'ha spiegato l'inventore di Cettola Qualunque. Sapete chi è Cettola Qualunque? Il personaggio inventato da Antonio Albanese, Facimo Ponti. Antonio Albanese, quando è ripartito Salvini con questa storia, gli hanno chiesto ma perché ritorna così, e lui ha detto deve rispondere Cettola Qualunque Antonio Albanese, attore impegnato. Ha detto Antonio Albanese, lui ha detto perché facciamo il ponte, facciamo sono tre parole. Anche il politico più sprovveduto, più strafottente, più lontano dai problemi, la Calabria lo sa dire. Immaginate voi da dire, dobbiamo risanare i territori di Calabria, Sicilia e Sovrarisco. Dobbiamo puntare sulla sostenibilità, di cui parleremo tra un attimo, dello stretto di Messina, perché non solo ci detta i modi di comportamento, però ci detta uno scenario di futuro che è l'unico credibile dopo il fallimento di tutte le ricette. Da tutto agricoltura alle grandi infrastrutture, ai grandi poli di sviluppo industriale e infrastrutturale, all'urbanizzazione diffusa che hanno proposto per il sud. Oggi se c'è una ricetta che è obbligata però comunque è quella di puntare per la sostenibilità sociale sulle regole che ti dà il patrimonio territoriale e paesaggistico. Lo stretto di Messina ha la prerogativa di essere un realtà fortissima da questo punto di vista, che ti dice cosa devi fare e ti dice come puoi essere felice nel prossimo futuro, ma di questo noi non possiamo parlare. Ne possiamo parlare nelle decenni a questa parte, tutta una serie di programmi sono partiti, a cominciare da Ecolandia, di cui qua abbiamo stasera il direttore tecnico, che è un parco energetico, ambientale, produttivo, ludico e culturale che sta sopra Catona, ma ci sono decine di questi programmi che sono ripartiti nell'area, però non lo sa nessuno o quasi nessuno, perché la grande politica mediatica si deve occupare della figurina che non è solo funzionale a sprecare soldi, è funzionale storicamente a levare risorse per la Calabria, la Sicilia e al sud. Non è un caso che avviene mentre ti tagliano il reddito di cittadinanza, che era una questione importantissima per queste regioni. Sta venendo avanti l'economia differenziata e criminali, anche quei quattro soldi che avevate messo per la lotta al dissesto idrogeologico nel PNRR, li avete cacciati mentre agitate questa figurina che assolutamente finanziate, eccetera. Quindi questa è la prima parte. La seconda parte, che mi sembra più interessante, che ognuno di noi capisce, è quella di riuscire a leggere in maniera multimediale, ma anche con un'interazione diretta, le potenzialità e le regole che ci danno i nostri territori. La cosa interessante dello Stretto di Messina è che queste regole sono molto evidenti. E allora lo Stretto di Messina è in grado non solo di dirti come puoi mantenere e tutelare una delle opere d'arte naturali più grandi del mondo, ma ti può dettare le regole non di produrre reddito, di produrre finanziario ed economico e massimizzarlo, ma come ottimizzare il buon vivere prossimo futuro. Allora, questa è la seconda parte dell'intervento su cui mi soffermerò. Però prima di passare a questo, farei un giro, visto che siamo qui per questo, cerchiamo di rendere utile l'incontro. Se qualcuno vuole chiarirsi dei punti o fare delle osservazioni, farei un minimo di discussione, poi passerei alla seconda parte, che poi proseguirà anche Piero Polimeni, perché parla sì di tecnologie, però lui è uno dei protagonisti che sta portando avanti da tempo. Realmente noi disegniamo di questo la pianificazione a maglie larghe. Lui e altri disegnano i progetti di queste cose nuove. Quindi molto importante la tecnologia. Però la cosa importante è capire che noi siamo dentro realtà territoriali che ci dettano i comportamenti intelligenti per il prossimo futuro, se non continuiamo a sfasciarli, se non continuiamo a inseguire queste cose. Farei un, se ci sono domande, approfondimenti, osservazioni sul primo punto, la favola Ponte di ieri. Se avete cose da chiarire, se no tocchiamo velocemente il secondo punto e poi lasciamo alla seconda parte della serata, cioè all'intervento di Polimeni. Ci sono domande su quello che è. C'è un progetto che è stato bocciato, che soprattutto è stato bocciato dai progettisti, che è tutto dire. Poi è stato bocciato anche perché non rispetta le leggi, le norme ambientali europee e nazionali, non rispetta le norme paesaggistiche europee e nazionali. Quindi, mentre Salvini dice in 6 mesi rifacciamo il progetto definitivo, e facciamo il progetto esecutivo, che è quello che non è mai stato fatto, perché i progettisti dicevano avrebbe dimostrato il contrario. In realtà, tra l'evoluzione normativa e le critiche che hanno fatto gli stessi progettisti, solo per fare un progetto definitivo credibile avresti bisogno almeno di 18-24 mesi. Poi considerate che nel progetto, per ogni elaborato di progetto definitivo ce ne sono circa 8 di progetto esecutivo, quindi per fare passare il progetto esecutivo immagino quanto ci sono, cosa in cui uno si imbarca se ha qualche possibilità di fare una cosa realizzabile, perché se il definitivo continua a dirti non si può fare, ovviamente nessuno si imbarca a fare l'esecutivo. Quindi la fase di progettazione è molto in alto mare, io credo che non l'affronteranno. E sono nella fase in cui ci siamo trovati nel 2009, tra la vigilia di questa manifestazione, quando tornati da Roma non l'abbiamo manco detto a molti compagni, perché non ci credeva nessuno, che avevamo incontrato i coordinatori del progetto e ci diceva non si può fare. Però qualche giorno dopo proprio l'avevamo fatto la riunione organizzativa a Villa della manifestazione, tornavamo a casa con Osvaldo Pieroni e abbiamo sentito Tremonti è andato al CIPE, che è il Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, e ha detto che non ci sono i soldi per fare il ponte. Quindi i cantieri, altro che 2011, forse si cominceranno nel 2013, che era successo. Che di fronte alle critiche dei progettisti, Tremonti, allora Ministro dell'Economia, aveva cacciato le castagne dal fuoco a Berlusconi, che continuava, come Salvini oggi, a dire faremo domani, dopodomani. E io credo che finirà alla stessa maniera, anzi la Meloni ha già da tempo sta dicendo non spariamo cazzate perché non abbiamo soldi. Però in questo non spariamo cazzate perché non abbiamo soldi. C'è una posizione intelligente che dice queste boutard che una volta pagavano, adesso sono portano molto meno consenso. Però il problema di Salvini, come altri, che non ha, sa fare propaganda, ma poi non sa fare a gestire niente, tantomeno conosce i problemi di Calabria, Sicilia e Stretto di Messina, quindi continuerà. Però credo che finirà così, che tra qualche mese, forse dopo le europee, diranno non ci sono i soldi, rimandiamo al 2030 un'eventuale chiusura del progetto Seudi. Questa fase qui. Altre domande? Sulla figurina, forse potresti chiarire bene anche il concetto di figurina. Cioè io, com'è che questa figurina che fanno vedere sempre, che tutti che continuano a produrre continuamente anche su TG? Tra l'altro quelle simulazioni le abbiamo fatte noi. Sono simulazioni che ha fatto, ti ricordi come si chiamava? Urbano. Le abbiamo fatte noi. A un certo punto, per simulare l'impatto paesaggistico, abbiamo fatto queste cose e poi la Stretto di Messina, la società ha fatto sue, ha abbellito e continua a vendere. Ma la figurina non è proprio perché è fatta bene. La figurina è questa cosa che metto avanti perché non ho nient'altro da dare ai territori interessati, non ho voglia di darlo, non ho voglia di rompermi i coglioni con i loro problemi e con le loro prospettive, quindi ho questa cosa di impatto mediatico, la tiro fuori e taglio, gli frego quello che gli devo fregare volta per volta. Questa è la funzione della figurina Ponte sullo Stretto. E puntualmente, quando tirano ciclicamente fuori questa cosa, sempre più improbabile eccetera, però c'è sempre qualche fregatura pronta per noi. Adesso tutti dicono la grossa fregatura è che ci hanno levato il reddito di cittadinanza, che sta avvenendo l'autonomia differenziata, che hanno tagliato i soldi del dissesto. La più grossa fregatura per Calabria e Sicilia è che non si fa niente per cominciare a lavorare sul risanamento del territorio che ci permette nei prossimi decenni di affrontare i crescenti alluvioni e temporali che ci cadranno addosso al di là di eventuali problemi sismici. Noi la simulazione paesaggistica l'abbiamo fatta sempre su sollecitazione degli americani. Gli americani sul Golden Gate mi hanno chiesto come lo chiami quest'area, e io gli ho risposto come lo chiamano tutti i libri di geografia, tutti gli atlanti di geografia: Baia di San Francisco. E no, hanno detto, prima dei ponti si chiamava Stretto di Auckland. Auckland è l'isola e con la città che sta di fronte a San Francisco. E sai qual è la differenza tra Baia e Stretto? La rottura della unità scenografica che questi enormi paratie verticali ottengono in questi tipi di territori. Cioè ci sarebbe non più lo stretto con la sua continuità scenografica, ma ci sarebbe una parte sud fatta dal centro di Messina, la parte sud del ponte, e il centro di Villa San Giovanni, e una parte nord fatta da Faro, la parte nord del ponte, Pezzo e la Costa Viola. Ma la rottura dell'unità scenografica rispetto a una delle opere d'arte naturale più grandi del mondo è un fatto gravissimo. Immaginate poi le torri del ponte che sopravanzano di un terzo le più alte alture della zona. Questi sono. Il problema del ponte è che nasce già vecchio, ma nasce in una fase in cui eravamo tutti sparati, gli anni 60 e 70, ci staccavamo dalla terra, soprattutto in Calabria e Sicilia, che era così difficile rendere un fatto economico, ce ne andavamo. E allora lo Stretto di Messina è diventato nulla. In questo nulla, un programma economico nazionale che si chiamava Progetto 80, che è stato fatto negli anni 60 del secolo scorso, ma si chiama Progetto 80 perché si sarebbe dovuto attuare nel Progetto 80. Ha detto in questo nulla, che è lo stretto di Messina e che sono le province di Reggio e Messina, noi facciamo Catania con la sua zona industriale, Taormina con la sua zona turistica, Messina Sud con la sua zona industriale, Milazzo con un'altra zona industriale, industrie che non c'erano mai state. Quindi facciamo questi poli. Dall'altra parte facciamo questi due grandi poli. Primo, in Calabria quando fanno una cosa è sempre la più grande del mondo. Male che ci va in Europa. C'è il ponte più grande del mondo, il più grande centro siderurgico del mondo doveva venire a Gioia Tauro. Ovviamente non sta, però facciamo il più grande centro siderurgico del mondo a Gioia Tauro. La più grande, una delle più grandi fabbriche chimiche a Salina Ionica, la Liquichimica l'hanno fatta, col problema che però produceva sostanze cancerogene, per cui ci sono stati gli impiegati alla Liquichimica, circa 200, compresi amici e compagni nostri, che sono passati direttamente dalla Pietro Baciglieri, uno che conoscete, dalla condizione di corsisti alla condizione di cassa integrati, senza fare mai un giorno di lavoro effettivo. Oggi in pensione le casse integrate. Allora noi avevamo questi quattro poli, da Catania riposto a Milazzo da una parte, poi Salina e Gioia Tauro, più le piccole zone industriali di Campo Calabro e Villa San Giovanni, che doveva essere lo sviluppo della zona, quindi due aste che univamo, bam, con la sbarra. Quindi in questo nulla, che era lo stretto di Messina secondo loro, mettevano questa H vista dall'alto che portava allo sviluppo. Ora abbiamo scoperto che quello sviluppo è stato completamente un fallimento, non si è fatto niente se non disabituarci ancora a apprezzare la terra in cui siamo, cioè sostituiamola col cemento. Abbiamo messo talmente tanto cemento che abbiamo indebolito tutto. Secondo, infatti siamo le regioni d'Europa, perché siamo tra i più a rischio? Perché siamo le regioni d'Europa che hanno consumato più suolo e che hanno rapporti case vuote abitanti più alti d'Europa. La Calabria in questo batte tutti. Noi potremmo, solo la Calabria, riceverci e gestire con politiche abitative interessanti buona parte dell'arrivo di migranti di tutta Europa, per quello che è. Noi abbiamo 500.000 case vuote, ormai un terzo delle case che abbiamo sono vuote e non si riempono in nessun modo nel turistico, ma anche la Sicilia è combinata poco peggio. E il nulla ha prodotto altro nulla, e finalmente, dopo che è fallito tutte le ricette per il sud, ci ricordiamo che abbiamo un territorio, un paesaggio, un patrimonio territoriale che ci detta le regole, e lo stretto è un grande patrimonio da questo punto di vista. E allora noi dobbiamo abituarci a leggerlo e a pensare attività che sono compatibili con le regole, principalmente la regola ambientale, la regola ecopaesaggistica, da cui viene la regola insediativa, la regola sociale, la regola economica, la regola culturale, che ci dà queste forme dello stretto. Il progetto del ponte non poteva rispettare. Infatti, che facevano nella progettazione? Perché lo stretto di Messina ha testimonianza della ricchezza che ha dal punto di vista ecopaesaggistico. C'ha 13 zone speciali, 13 siti di importanza europea e nazionale, SIC e ZPS, che sono tutti vincolati. E non è che il vincolo vuol dire io metto un vincolo per non fare, perché mi giro di non fare le cose. I vincoli sono importanti, perché dietro un vincolo che mi dà il codice vuol dire che lì c'è una ricchezza ambientale e paesaggistica che posso fruire se rispetto le regole che là ci sono. Se faccio quello che ho fatto negli scorsi 50 anni non la fruisco più. Adesso che siamo con l'acqua alla gola e dobbiamo mettere al centro la regola ambientale, questi territori sono diventati territori preziosi anche da questo punto di vista, perché ci dicono, con le loro morfologie, con le loro ecologie, con la loro storia, con la loro cultura, come ci dobbiamo comportare per avere un futuro accettabile e credibile. E la cosa interessante, noi con le università di Reggio e Messina, insegno a Firenze, però ho sempre lavorato sul sud come ricerca, abbiamo fatto, finita la storia del ponte, finita almeno nelle sue forme più ufficiali, istituzionali, poi ritorni, sono troppo comodo, la cosa, facciamo ponte ogni 4-5 anni per il politico più sprovveduto. Però finita quella storia là, noi abbiamo fatto un laboratorio appunto sullo stretto sostenibile, in cui facevamo un censimento dei primi progetti di programmi che stavano partendo. Ora, alcuni di questi programmi sono realtà. Al di là di operazioni che in qualche modo sono eccezionali come Ecolandia, ma il lavoro che stanno facendo i GAL, c'è il GAL stretto, il GAL della Vallata del Gallico qua sopra, il GAL dell'area greganica, che poi Piero conosce bene, perché uno, il GAL dei Peloritani, senza che ci sia, che sono un parco regionale, sono altre cose importanti che stanno si stanno realizzando, realizzando i percorsi dei portini, si sono rifatti i terrazzamenti, c'è stato un rilancio dell'agricoltura, cosa che non c'era, c'è stato il collegamento tra agricoltura e turismo esperienziale. Questi sono elementi tutti presenti che possono assicurare non la massimizzazione del reddito, però possono assicurare un buon vivere in queste aree, cioè vivere bene, che quello dobbiamo cercare. Perché forse, se abbiamo capito una lezione, non è che dobbiamo noi rispettare l'ambiente, noi dobbiamo convivere con tutti gli altri esseri viventi. Dobbiamo imparare a convivere, compreso quelli che vegetano, ma dobbiamo anche imparare a rispettare la parte abiotica dell'ambiente. Tutte queste regole che noi abbiamo trascurato da quando abbiamo catturato la fiamma, cioè dall'illuminismo in poi, adesso noi le dobbiamo rispettare. Questi territori qui ci stanno dimostrando, lo stretto lo sta dimostrando, che si può avere sostenibilità sociale rispettando queste regole, anzi si deve avere. Di questo qua mi fermo, perché poi penso che Piero proseguirà da questo. Però la cosa importante, che la cosa interessante oggi e di domani, è lo stretto sostenibile, però non ha il fascino mediatico e soprattutto l'interesse dietro mediatico finanziario che c'ha ancora la figurina del ponte. Quindi dobbiamo continuamente liberarci dalla figurina del ponte, strapparla continuamente per portare avanti faticosamente, però sempre in maniera sempre più allargata, queste strategie che sono invece le strategie intelligenti per il prossimo futuro. Mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione. Se c'è qualche domanda o osservazione prima di lasciare il microfono a Piero. Intanto questa operazione e questa domanda è interessante, perché dobbiamo liberarci di un altro vincolo. Ancora pensiamo allo stretto soprattutto come... lui chiede se nello stretto sostenibile ci sono delle modalità di attraversamento meno precarie e meno impattanti dei traghetti. Allora, la cosa però da cui ci dobbiamo liberare, dopo quasi un secolo di bombardamento mediatico, a pensare allo stretto solo come un'area in cui appunto non c'è nulla e tanto vale che l'attraversiamo. Lo stretto non dobbiamo pensarlo in termini infrastrutturali, lo stretto è una grande struttura di sostenibilità messa al centro di una più grande struttura di sostenibilità che è diventata una tragedia. Cioè, prima che succedesse questo, insieme alle associazioni culturali di cui facevamo parte, parliamo di 40 anni fa, a Reggio, su intuizioni di Tonino Perna, che era un sociologo economista allora giovane, si fece una cosa che si chiamava vivere il Mediterraneo. Perché sostenevamo che lo stretto di Messina era una grande area di sostenibilità, all'interno di una più grande area di sostenibilità dove bisognava investire saggiamente sull'altra parte del Mediterraneo per farla decollare, per fruire tutti insieme di uno sviluppo che non poteva essere che uno sviluppo ecopaesaggistico soprattutto. Mi ricordo nel 1990 un grande pianificatore inglese che si chiamava Tim Shaw e insegnava a Newcastle, in un convegno fatto qui ad Altafiumara, disse: dobbiamo prendere atto che abbiamo un'Europa del centro-nord, che è un'Europa soprattutto urbano. No, questi sono fuochi d'artificio. Questo pianificatore inglese nel 1990 disse: dobbiamo prendere atto che c'è un'Europa del centro-nord che ormai è assestata su uno sviluppo urbano industriale, e un'Europa mediterranea che deve cercare uno sviluppo che necessariamente, lo disse 35 anni fa, è legata al territorio, al patrimonio territoriale, paesaggistico, ambientale e culturale. E questa era una cosa che si è cominciata sempre più lentamente a portare avanti, però che la crisi politica da una parte e la crisi finanziaria dall'altra ha sempre spinto. E qual è la conseguenza della finanziarizzazione della politica? Ce l'ha spiegato al Politecnico di Torino un vecchio dirigente della Fiat in pensione, in una serata che si faceva al Politecnico, ma organizzata dai Valsusini, una diecina, quindicina anni fa, e noi ancora ci accapigliavamo sulla giusta pianificazione, l'impatto ambientale, progetti infattibili, cose eccetera. Lui disse: io sono ammirato da voi, vi occupate di queste cose, ma la politica istituzionale non è più questo. La politica istituzionale ha dei protagonisti che sono consigli di amministrazione, oggi anche algoritmi che comandano, e che hanno un problema. Che mentre l'economia andava con economie familistiche, generazionali, di fase medio-breve, per cui tu ti affermavi se i tuoi bottoni erano fatti bene, quindi venivano costruiti bene, si affermava eccetera, tu affermavi il prodotto e quindi ti arricchivi. L'economia finanziarizzata, la politica finanziarizzata, ha bisogno di ottimizzare il flusso di denaro. Non necessariamente la quantità di flusso di denaro, non la quantità che incameri tu. Tu puoi essere un furfante, ma se fai girare soldi, il mondo del calcio, ma come tu, è pieno di queste cose. Se fai girare soldi sei bravo. Però la cosa che bisogna capire è che è cambiato l'orizzonte. Gli Agnelli, quando comandavano davvero le famiglie, avevano un orizzonte di generazione familiare, 25-30 anni. Oggi chi sta dentro il consiglio di amministrazione ha un orizzonte di mesi, cioè, perché dopo 6 mesi, un anno, 18 mesi va a fare un altro mestiere, quindi deve ottimizzare gli incassi in quel. E hanno scoperto che fare, muovere soldi dicendo di fare le opere piuttosto che iniziare opere e portarle avanti è molto più redditizio. In questo quadro l'innovazione che hanno fatto a San Francisco 20 anni fa, a proposito di traghetti, quando sono andato a vedere il Golden Gate e gli altri ponti di San Francisco perdevano già per manutenzione $50,000 al giorno. 15 anni dopo abbiamo aggiornato il dato e perdevano $150,000 al giorno. Venivano sorretti dal fatto che c'è un'unica authority dei trasporti che aveva realizzato due metropolitane sottomarine negli anni 70, che incassavano invece, superate poi da i traghetti veloci, che addirittura sono state anche overcraft in certi momenti, ma che oggi sono, come anche nei fiordi svedesi eccetera, motonavi che vanno a batteria a ricarica veloce e non inquinano niente. Però che se tu vai a vedere qua i grandi vettori, cioè le grandi navi ultime che ha preso Matacena e compagni, sono quelle che hanno dismesso quando sono andati a prendersi le navi più piccole, ma la batteria a ricarica veloce. Quello è il futuro. Da questo punto di vista, un PNRR abbastanza fallimentare, l'unica operazione intelligente la fa sull'attraversamento dello stretto, perché investe 529 investe 529 milioni sull'ottimizzazione dell'interportualità e sull'innovazione del vettore navale, se non glieli tagliano, perché può essere che li tagliano, che non riescono a fare i progetti. Il PNRR è stata un'occasione sprecata da due punti di vista. Prima di tutto perché questo problema della ricaduta a terra della crisi climatica, i guai che porta sempre più frequenti, sia caldo e incendi e ondate di calore, attenzione, perché ne ha ammazzati di più nelle ultime due estati il caldo che non il Covid, almeno nell'Europa mediterranea, nell'Europa del sud, e questo crescerà. E poi invece il problema idrogeologico e le ricadute a terra. Già 10 anni fa, più di 10 anni fa, non un'università di urbanisti ecologisti radicali, ma il MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, aveva detto: per risanare il territorio italiano dal rischio sismico, idrogeologico, incendi, eccetera, soprattutto per affrontare quello che ci sta arrivando addosso con le ricadute a terra della crisi climatica, ci vogliono 200 miliardi. 200 miliardi, che vuol dire un programma ventennale da 10 miliardi. E non ci ha mai pensato nessuno. Ci aveva provato Renzi, che aveva lanciato lo slogan Casa Italia. Però quando gli hanno spiegato che non si trattava di fare 20 progetti a grande impatto mediatico, ma di fare 400-800 progettini di ricucitura del territorio da affidare alle regioni, alle province, ai comuni, non gli è fregato niente. L'ha immediatamente fermato. E così nessuno è stato capace di rimetterlo in moto. Quando è partito il PNRR, noi abbiamo detto: prendetevi quel programma del MISE e avviatelo, perché soprattutto per alcune regioni, tra cui Calabria e Sicilia in testa, è una cosa urgente. Dico, non spendete tutto il MISE, tutto il PNRR sui 200 miliardi, però potete avviare questa cosa importante. Niente, questo è il primo grande errore che hanno fatto. Il secondo grande errore che hanno fatto è che questo territorio, che come le attività, i programmi interessanti dello stretto sostenibile, ci sono territori più piccoli, ma che ormai dal basso producono ogni anno, lontanissimi da qualsiasi programmazione istituzionale, da qualsiasi istituzione finanziaria, una trentina di miliardi. Noi abbiamo detto: tutta la parte regionale del PNRR, datele a queste realtà, datele a questi territori, per esempio il bioecodistretto dei Nebrodi, per esempio la valorizzazione delle aree interne delle Madonie, quelle stesse operazioni che si fanno nell'area greganica. Sempre nell'area greganica abbiamo fatto il primo progetto di parco a mare, un programma che è nato negli Stati Uniti 30 anni fa, che vuol dire, invece di fare waterfront, cemento e auto che si progettavano lungomari 30 anni fa, consolidiamo la parte ecologica della spiaggia, facciamo dei parchi a mare, da una parte consolidando rispetto al livello del mare che si alza, dall'altra parte riqualificando il territorio. L'unico che è stato fatto in Calabria è stato fatto a Condofuri, proprio ieri sera avete visto che avete incontrato Valentino Santagati, che oltre che essere un artista, un coltivatore diretto e un ambientalista, lui è stato il primo a proporre questa cosa e poi quell'amministrazione ha fatto proprio. Quindi ci sono tutta una serie di progetti di sostenibilità che vanno accelerati, che vanno portati avanti. Il PNRR in tutta Italia poteva essere una grande occasione, per questo ha completamente trascurato questa possibilità. L'attraversamento dello stretto può essere intelligente, perché noi abbiamo bisogno di barca a bus H24, possibilmente che vadano a batteria a ricarica veloce e siano leggerie, nel senso che non hanno bisogno di approdi. In questo senso ancora ci sono 529 milioni, se non li cacciano, quindi qualcosa di nuovo ci dovrebbe essere. Altre domande, poi lascio la parola a Piero, che l'ho fatta lunghissima. Osservazioni? No, allora vi ringrazio. Ah, prego. Ma a parte che registriamo, l'organizzazione c'ha, non sull'aspetto costruence, non tanto dell'aspetto della sostenibilità dello stretto, su cui ora però tornerà anche Piero Polimeni, ma sull'aspetto destruence, cioè sulle critiche al ponte, gli organizzatori hanno una intervista abbastanza completa che vi potete fare riversare sul vostro telefonino o sul vostro PC e vi potete... Mi chiamo Alberto Zipero. Sono ambientalista, insegno pianificazione urbanistica a Firenze, sono un cittadino. Eh? Vabbè, però sempre in quell'intervista, vedete il mio, potete vedere il mio curriculum. Sono Oriana. Ascolta, no. Non mi interessa il discorso del nome del cognome tanto, però sì. C'è un problema proprio. No, ma non c'è, ma guardi che va bene. Eccomi qua. Tutto, no, ma va benissimo. Era una curiosità perché ci è piaciuto molto il suo discorso, ci chiedevamo appunto da dove veniva, quindi si vede che c'è un grande pensiero dietro. Noi, e anche il concetto che lei ha enunciato rispetto a un'Europa mediterranea è un ecosistema più grande che comprende lo stretto di Messina, ma anche tutti i porti. Mi piaceva ricordare una riflessione che mi è stata offerta da una persona che lavora nel Ministero ha lavorato per tutta la sua vita nel Ministero della Cultura come esperto di cultura del Latino America, e mi ha ricordato questa cosa molto bella, cioè che davvero dopo, quando abbiamo avuto la dominazione dei Savoia, che sono stata la casa regnante che poi ha vinto al tempo questa dominazione, loro erano un popolo effettivamente di contadini dell'entroterra che erano completamente orientati a fare quello che è stato poi il traforo del Monte Bianco. E dopo di questo ci sono state grandi famiglie come gli Agnelli, per cui si è investito moltissimo sulle infrastrutture che riguardano i treni, per esempio, o le automobili, quindi l'acquisto di automobili, e l'Italia ha completamente abbandonato tutti i suoi porti e quindi anche un sistema di porti e trasporti legato a questi punti nevralgici che si distribuiscono su tutta la costa, che è molto lunga e che non è nemmeno solo quella dello stretto di Messina. Io per esempio sogno sempre di poter viaggiare in nave, e mi è capitata un'emergenza familiare, mi trovavo alla punta della Puglia, quindi a Lecce, e speravo che ci fosse un qualche trasporto che connettesse Lecce con Reggio Calabria. Ebbene, questo non c'era perché sono solamente delle tratte commerciali. Ho dovuto, poi mi è venuta un'idea, ho detto Flixbus, Villa San Giovanni, eventualmente qualcuno si sarà immaginato un qualche trasporto che non prevede, visto che era un'emergenza, 4-5 spostamenti, e quindi sono riuscita ad arrivare con un Flixbus alle 4 di notte o alle 5 di notte a Villa San Giovanni per muovermi da Lecce, quando una nave sarebbe stata anche una modalità di trasporto estremamente piacevole. Quindi ciò che lei ha raccontato secondo me si intreccia anche con questo tipo di storia che riguarda le evoluzioni delle infrastrutture, cioè proprio dove ha investito l'Italia, perché appunto c'è il traforo del Monte Bianco ma non c'è una rete di trasporti che consenta per esempio di muoversi punto punto dalla costa, che sarebbe una cosa meravigliosa. Io sono nata qui, per esempio, non ci vivo veramente da tanto, da abitante marittima questa è la prima cosa che mi viene in mente da dire. C'è uno spreco delle coste che non riguarda solamente lo stretto di Messina o questa idea di ponte, e mi sono trovata per esempio a trasportarmi in questa mia piccola permanenza qui sulle isole Eolie, e lì c'è proprio un micro trasporto urbano. una rete veramente che già sono di bus punto punto, dove tra l'altro da dentro la città ho fatto quella cosa che volevo fare, cioè partire a piedi, prendere la nave con una piccola borsetta che era uno zainetto, insomma, e dire vado a fare un viaggio alle Eolie, che è semplicemente quasi come muoversi con un bus, come lei ha detto, no? Lei l'ha detto in modo più tecnico e specifico. Io dico proprio un bus nel senso di un trasporto metropolitano. Quindi ci sono veramente tanti aspetti e una visione che si potrebbe discutere al di là del ponte sì, ponte no, è bene o è male, ma anche il tipo di visione che si vuole come dire, proiettare su come ci muoviamo o su che cosa potrebbe essere un po' il trasporto nel Mediterraneo dell'Italia. No, tanto per completezza di informazione, ponte no, lo hanno detto, questo è importante che lo sapete, l'hanno detto i progettisti del ponte, non è che l'abbiamo detto noi, quindi questa importanza. Quella, giustamente l'istanza giusta che pone l'intervento è, si chiama domanda di pianificazione dei trasporti, che in Italia, quello che diceva lei, non ha funzionato nemmeno quando le infrastrutture si facevano, perché c'era una fase in cui c'era la domanda di autostrade, io facevo tante autostrade più del giusto perché mi conveniva realizzare autostrade. Poi finisce questa fase qua, torniamo, dopo che noi avevamo la linea ferroviaria più interessante d'Europa, l'abbiamo fermata quando è arrivata la Fiat dicendo qua si fanno tutte strade, basta ferrovie. Poi abbiamo scoperto che l'alta velocità era un affare più grosso di quello delle autostrade, abbiamo stoppato le autostrade che già ne avevamo fatte anche troppe e ci siamo lanciati sull'alta velocità dove non c'erano le condizioni per farlo. La sua istanza con legittima si chiama domanda di pianificazione, che noi abbiamo buttato a mare quando gli interessi, prima economici e poi sempre più finanziari, che si sono sposati con una politica sempre più mediatizzata, per cui il tunnel sotto Firenze o il ponte è una cosa che attira. Se tu dici che devi fare il piano di sostenibilità dei trasporti fiorentini, troppo difficile, come qua direbbe il discorso alternativo. Noi dobbiamo tornare, tra le altre cose, proprio per i guai che abbiamo, alla pianificazione, che invece è diventata una parolaccia negli ultimi periodi. Era proprio l'istanza che poneva lei. Altro tipo di domande? Secondo me è una piccola riflessione anche per quello che riguarda il movimento No Ponte. Spesso si dice il ponte non si dovrebbe fare, comunque ci sono altre priorità molto più importanti, soprattutto per territori come Calabria e Sicilia, quindi la mobilità, i trasporti, la sanità, eccetera, eccetera, eccetera, su territori come questi. E invece secondo me all'interno anche dei nostri movimenti dovremmo proprio dire che del ponte non se ne dovrebbe parlare proprio, perché fa parte di un modello di sviluppo, cosiddetto di sviluppo eccetera, che è questo che diceva prima Alberto, la cementificazione, un modello che produce solamente disastri ambientali, ecologici eccetera. Quindi anche come una piccola riflessione all'interno dei nostri movimenti antagonisti rispetto a queste cose, l'accettare comunque anche in maniera secondaria, terziaria rispetto a quelle che sono le esigenze dei territori, comunque un'idea di uno sviluppo che passi e che viaggi anche per opere di questo tipo, è fortemente sbagliato e da contrastare e da combattere, perché è qualche cosa che va proprio diametralmente opposto a quello che dovrebbe essere un... immagino che fosse quel discorso del buon vivir che diceva Alberto prima, e quindi modelli che comunque vadano a valorizzare e a curare e a manutenere il nostro territorio, e quindi in qualche modo, siccome questa qui c'è un'opzione che comunque viaggia anche all'interno dei movimenti, questa cosa non è prioritaria ora, ma no, non è prioritaria e basta, cioè è una cosa che non si deve fare, punto e basta, è una cosa che secondo me andrebbe ribadita per consolidare proprio un modello altro rispetto a quello che si immagina comunque di propinarci, e che in qualche modo riesce anche a inserirci con parole d'ordine di questo tipo, non è la priorità, anche in quelle che sono le battaglie di movimento. Approfitto così, mi Beh, aspetta, io saluto e ti lascio il microfono. No, è una domanda. Intervengo così, facciamo una cosa un po' più dinamica, partendo proprio dalla cosa che diceva Nando, che mi ha stimolato, no, questa riflessione. E metterci a discutere ancora oggi del ponte fa sì che momenti come questo diventano momenti che noi dobbiamo dedicare a una cosa che non dovrebbe riguardarci più, proprio perché volevo richiamare l'intervento che ha preceduto quello di Nando, scusa, non ricordo il suo nome. Però abbiamo tanto da fare, cioè noi abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire, tante cose da sperimentare, ognuno nel nostro specifico, che queste discussioni portarci sempre a riflettere su modelli altri che arrivano, ci vengono proposti, ci vengono propinati, ci costringono a dover dedicare del tempo a fare quello che dobbiamo fare, nel senso che dobbiamo opporci, e ci sottraggono tempo invece a quello che deve essere la risposta. Quando parliamo di stretto sostenibile, no, ci sono tante cose da fare. Una è quella della mobilità, ma ce ne sono tantissime. Il nostro territorio ci insegna, ci dà tante di quelle lezioni e delle risposte, e anche tante risposte a quelle visioni che magari tanti di noi vorrebbero mettere in pratica. Noi, io per storia e per scelta, sono un abitante dello stretto, sono rimasto qui, sono rimasto a fare quello di cui stiamo parlando, cioè sperimentare cose, iniziative, attività nuove, innovative o anche vecchie, che però erano state dimenticate o forse trascurate. Quindi quello che voglio trasmettervi, no, è che ognuno di noi è portatore di un sapere. Quel sapere lo deve mettere a disposizione delle iniziative, dei progetti che possono utilizzare la sua esperienza e la sua competenza. È quello che noi stiamo facendo ormai da tantissimi anni. Abitante dello stretto per me significa conoscere il mio territorio e dare il mio contributo anche, come dire, di competenze e di professionalità per costruire una visione, per metterla in atto, una visione diversa in questa nostra realtà. E allora la sperimentazione, dicevo, no? Noi dobbiamo sperimentare anche quello che è stato fatto qui oggi, in questi giorni, è già molto importante, perché anche nel rapporto con questo territorio, che è un territorio difficile, come abbiamo detto, ma una realtà, una presenza come quella del centro Cartella e della presenza che ci sono in questi giorni, dà un segno, come dire, di innovazione e di speranza a questo territorio. E questi sono i fatti importanti. Dicevamo, l'area dello stretto ci insegna molto. Noi, quando al Parco Colandia facciamo arrivare i ragazzi, perché questa è una delle attività più importanti che stiamo realizzando in quella realtà, noi portiamo i ragazzi su per partire da loro. I ragazzi, intendo studenti, ma anche delle scuole, sì, poi lo spiego piano piano, anche i ragazzini delle scuole dell'asilo nido vengono a trovarci, no? E allora la prima cosa che facciamo è li portiamo su uno spiazzo, su un terrazzo che guarda lo stretto, facciamo posare i cellulari da parte, li depositano in una busta che poi potranno ritrovare facilmente, e gli facciamo guardare lo stretto. Al di là delle parole, guardare lo stretto da quel punto, e sto parlando di un punto molto panoramico che è sull'Aspromonte, è uno dei punti di cui parlava Alberto, cioè un punto importante dell'area dello stretto. E i ragazzi apprendono a guardare, solo a guardare, a sentire che cosa, quali sono le sensazioni che dà lo stretto. Ecco, e da lì si parte. Il parco Egolandia, ne avete sentito parlare, è uno dei punti di resistenza di questa città. Voi la conoscete magari poco, avete conosciuto il Cartella però, che è un altro dei punti di resistenza. Il parco Egolandia, appunto, ormai da tanti anni, è divenuto un punto di resistenza e un punto di proposta. Lo stanno guardando da tanti punti di vista. Alberto diceva, i pianificatori, gli studiosi, i sociologi, gli economisti guardano all'esperienza che stiamo realizzando lì e ne rimangono colpiti, cioè ci invitano ad andare avanti, ci invitano a, a proseguire in questa nostra testarda esperienza. Dico testarda perché il Parco Egolandia, Egolandia sta in un quartiere che forse voi non conoscete, ma è un quartiere molto degradato. Si tratta di Arghillà, non so chi di voi ne ha sentito parlare, magari sui giornali, un po' come Caviano o altre realtà delle periferie delle grandi città. Vivono 6.000 persone in quella zona e 6.000 persone sono, come dire, abbandonate al proprio destino. Quindi il parco si trova dentro questa realtà, si trova tutti i giorni a confrontarsi con problematiche molto grosse del degrado urbano, dei temi della mancanza di servizi, la mancanza di acqua in estate, per esempio, no? Quindi una realtà che, nonostante sia localizzata in quel punto, è riuscita ad essere invece un riferimento per tante, tante persone che si avvicinano, portano i ragazzi, incominciano a ragionare, a guardare con occhi diversi, a partire dallo stretto. È questo che voglio mettere in evidenza, a partire dallo stretto. Noi la prima cosa che facciamo con tutti è quella di portarli in questo posto magico e dirgli guarda, no? Guarda, è semplicemente, è prova delle sensazioni. E poi queste le sensazioni le discuti con noi. Noi siamo una realtà, quando dico noi, siamo una realtà di 20 persone circa, che stiamo difendendo, direi io, quel pezzo di città, quel pezzo di posto, quel pezzo di realtà, che è una realtà, come dicevo, molto difficile, ma anche molto, molto interessante, no? Perché si danno delle dinamiche sociali complesse che ti aiutano anche a capire le risposte che devi dare. Quindi il parco è un centro educativo, un centro di educazione, un centro di sperimentazione, non solo di tecnologie, ma poi ne accennerò qualcuna, perché anche questo è importante, ma un centro dove la socialità è il punto principale. Attraverso la socialità che si riesce a determinare attorno ad iniziative che si realizzano, ma anche la piantumazione di un albero diventa un fatto di socialità. E vi assicuro che piantare un albero in questo momento, in questa situazione in cui ci troviamo, no? È molto importante, soprattutto in un'area dove, come diceva Alberto, si è costruito, perché quello che ha detto Alberto per l'Eremo vale per altri quartieri, vale anche per Arghillà, dove si sono costruite case popolari di cemento e basta, senza servizi e senza un metro quadrato di verde. Quindi costruire, realizzare con gli abitanti iniziative di piantumazione degli alberi già diventa un fatto importante. Un fatto importante educativo da un lato, ma anche di risposta a quello che è stato fatto, allo scempio, no? Che spesso gli amministratori perpetuano su questi territori. Quindi il parco è un luogo di riflessione, un luogo di sperimentazione, un luogo di educazione. Lì abbiamo scelto anche di fare innovazione, che credo interessi abbastanza. E attraverso l'innovazione parlare al quartiere, parlare alla città, parlare ai ragazzi, ovviamente, in primo luogo, che si formano. No? E così, attraverso tante progettualità che abbiamo messo in cantiere, siamo riusciti ad avere dei punti di sperimentazione per far vedere che si può fare. Allora, vi faccio solo un esempio sulla questione dell'energia. No? Oggi vediamo anche la città di Reggio Calabria, tutte le città, stiamo sentendo, stiamo parlando di centraline di ricarica delle auto elettriche, ormai un must, no? In tutte le città, in tutti i luoghi, abbiamo le centraline che ti permettono di ricaricare magari velocemente un'auto elettrica. Lasciamo perdere tutte le implicazioni che ci sono, però non so se voi avete mai riflettuto, noi lo facciamo lì al parco avendo realizzato una struttura che adesso vi racconto. E noi diciamo, bene, ricarichiamo le auto elettriche, lo facciamo così perché pensiamo che non bisogna consumare petrolio, eccetera. Trascuro appunto queste riflessioni un poco più di dettaglio per arrivare al dunque. Però quando noi mettiamo quella spina, lasciamo la nostra auto elettrica, la nostra bici elettrica e carichiamo attraverso le colonnine ufficiali che ci sono in città, noi stiamo utilizzando il petrolio. Non so se avete mai riflettuto su questo, no? Perché quelle colonnine sono collegate alla rete nazionale. La rete nazionale utilizza energia che viene prodotta nelle centrali, ancora oggi, nonostante i problemi che abbiamo sui cambiamenti climatici, determinati dai cambiamenti climatici. Quindi una semplice operazione di produzione di energia locale attraverso un sistema fotovoltaico, per esempio, che potete, se avete interesse, magari salire, ma forse andate via domani e non c'è tempo. Però potete guardarlo sul sito, insomma, approfondire questi argomenti anche sul nostro sito. Però noi abbiamo realizzato una centralina fotoeolica, perché il fotovoltaico, quando c'è il sole, funziona, carica delle batterie, quando non c'è il sole sicuramente ci sarà il vento e quindi ricarica anch'essa le batterie. Questo, senza scendere nei dettagli, mostra che ha senso e noi utilizziamo quella colonnina per ricaricare i nostri mezzi elettrici che usiamo all'interno del parco per fare le visite, perché è abbastanza grande questo parco. E voi capite che questo è completamente diverso, perché noi produciamo l'energia sicuramente utilizzando le fonti rinnovabili, cioè diciamo ha senso ricaricare i veicoli elettrici, ma se usiamo fonti rinnovabili che siano veramente rinnovabili e non che utilizzi la rete elettrica, ok? Questo è solo un esempio che mi sembrava interessante porre alla vostra attenzione. Attraverso la tecnologia poi facciamo sì che i ragazzi apprendano, no? Guardano alle risposte che si possono dare alla situazione che ci siamo, in cui siamo, ci siamo infilati, forse non per nostra volontà, ma sicuramente... Dove siamo non è, come dire, una situazione che ci conforta. Ad esempio, anche qui c'è uno di questi esempi. Il forte, perché il parco sorge attorno a un forte, di fine secolo Ottocento, è un esempio di come bisogna costruire oggi, di come l'architettura dovrebbe essere fatta, e cioè utilizzando tutti quei sistemi che oggi, no, sappiamo, per esempio, ne abbiamo sentito parlare del bosco verticale, no? Lì su quel forte c'era un sistema, un tetto giardino fantastico, no? Che creava le condizioni interne all'abitazione, all'edificio, al forte, semplicemente utilizzando la reazione di un certo tipo, il tetto giardino, e soprattutto la raccolta delle acque. Ecco, noi qui in questa città ce ne stanno accorgendo sempre di più, diciamo, tutti quanti, il sistema di raccolta delle acque è assolutamente sconosciuto. Anzi, adesso che piove con una frequenza molto più elevata, le strade sono impraticabili, diventano dei fiumi. Avete visto anche in altre città, ma Reggio Calabria ha dei problemi grossissimi da questo punto di vista. Basta guardare quello che c'è al forte, e noi lo facciamo vedere ai ragazzi, no? Come bisogna raccogliere l'acqua. Anche qui c'è un esempio, come diceva prima Nando: raccogliere l'acqua piovana e riutilizzarla è un fatto importantissimo, sia per come dire, non solo per risparmiare l'acqua, ma anche per evitare i disastri che le bombe d'acqua possono generare. E quindi, guardando il forte, noi insegniamo ai ragazzi che cosa si può fare, come dovrebbe essere fatto. E poi i ragazzi tornano in classe e ne parlano con i propri insegnanti, tornano a casa e ne parlano con i genitori. E questo è un veicolo straordinario di educazione, no? E anche di cambiamento che si genera. Per cui, diciamo, nella nostra esperienza, quando parliamo di sostenibilità e quando Alberto dice lo stretto sostenibile è fatto di tanti piccoli esempi, il parco è uno di questi esempi, cioè dove si praticano azioni che concretizzano il concetto di sostenibilità, fondamentalmente, no? È abusato questo termine, se ne parla anche a sproposito, però ecco, coniugarlo con azioni concrete, con esperienze, con sperimentazioni che possono esemplificare e poi anche essere trasferite fuori, per noi è un fatto importante. Ne abbiamo fatto la nostra vita ormai è dedicata a questo, e lo facciamo da tanti anni. Adesso ci troviamo un problema enorme, perché probabilmente il comune di Reggio Calabria vorrà chiudere questa esperienza, perché dà molto fastidio. E quindi noi chiederemo poi aiuto in Italia ai nostri compagni, ai nostri amici, chiederemo aiuto perché quell'esperienza non finisca. Probabilmente finirà che occuperemo anche noi lo spazio, perché così andrà a finire. Però ecco, io credo che quell'esperienza sia un tassello importante, insieme a tanti altri che si stanno realizzando e che costruiscono questa sostenibilità dello stretto di cui parlano gli studiosi, di cui anche Alberto ci ha parlato, e che quindi vi lascio con questo messaggio. Probabilmente riceverete una richiesta d'aiuto e quindi ci aspettiamo delle risposte anche da voi nel prossimo futuro. Grazie. Ovviamente tutte le domande che volete, è più facile rispondere alle domande che fare un intervento lungo. Non so se è giusto per una mia chiarezza. Sì. Non so se rivolgerla a chi dei due mi può rispondere, se può avere diciamo una connessione con questa proposta e controproposta che riguarda lo stretto. Mi è capitato di andare l'anno scorso alla Biennale dello Stretto al Forte Siacce. E ovviamente io non sono un urbanista, un architetto, non sono del settore, però ho capito nel complesso che c'era, proprio a fronte di quel PNRR di cui tanto si parlava, una forte attenzione rispetto alla proposta sull'area territoriale che includeva i GAL e quindi questi gruppi di azione locale che volevano riproporre quindi la valutazione delle tipicità nostre, tipo l'annone, tipo la merendella, tipo quelle proprio specifiche coltivazioni che sono unicamente sul nostro territorio, quindi il limone di Favazzina, così come per il bergamotto è avvenuto. E volevo capire, perché ho visto, ho intuito che c'era probabilmente veramente una proposta di rivalorizzazione del territorio che a cascata poteva riportare dei benefici su vari livelli, a un livello appunto di benessere sostenibile, però non riesco a capire, ovviamente non avendo le competenze, il nesso e quanto di vero c'è dietro a quel tipo di proposte e se veramente si riesce ad accedere a quei fondi attraverso le proposte che vengono fatte. Volevo capire se... Sì, infatti io mi sono limitato nell'intervento a raccontare un po' l'esperienza del parco. Ovviamente quello di cui stai parlando è un altro dei tasselli e dei pezzi, non tanto diciamo di resistenza, ma di proposta che nello stretto si dà e che sta avendo anche molto, molto successo. Il Forte Ecolandia è partita con la qualificazione del Forte, diciamo che si chiama Gullì, però fa parte di una batteria di forti, di 23 forti che stanno nell'area dello stretto. La maggior parte di questi forti stanno nell'area siciliana, sui Peloritani e nella città di Messina, e 8 invece sono qui nella nostra sulla costa calabrese. Il Forte Siacci fa parte dei 3 forti che stanno a Campo Calabro. A Campo Calabro ce ne sono 3, e poi via via ce ne sono 2 a Catona, il Forte di Pentimele e le batterie in città fino a Pellano. Quindi già di questi 23 forti, tra Reggio e Messina ce ne sono 6 che sono stati riqualificati e sono utilizzati e stanno in rete, no? Quella rete di cui si parlava. Stanno in rete con esperienze diversificate, anche quella di Forte Siacci con la Biennale è una delle proposte di utilizzo del forte per fare cultura ed è interessantissimo. Accanto a queste esperienze ci sono poi le attività, le attività che propongono appunto i gruppi di azione locale, che sono sempre più importanti e sempre più forti sui territori. Ce ne sono in provincia, nella città, diciamo, e in provincia di Reggio, nella città metropolitana di Reggio, ce ne sono 3. C'è il GAL Terre Locridee, il GAL Area Grecanica e il GAL Batir, che ha competenza su tutta la zona tirrenica, diciamo. Sono divisi in questo modo. I GAL sono delle strutture pubblico-private, hanno dentro i comuni che vogliono starci, le imprese private, le associazioni, i gruppi anche di secondo livello, Coldiretti o altre organizzazioni di questo tipo. È chiaro che sono i GAL sono a metà, no, tra non possiamo chiamarli gruppi resistenti, possiamo chiamarli gruppi di proposta, no? E quindi sono anch'essi importanti per definire politiche di sviluppo tra virgolette sostenibile di queste realtà, e si stanno muovendo molto bene, anche perché non so se voi conoscete l'approccio leader proposto dall'Unione Europea, che è un approccio che prevede, per poter realizzare delle iniziative devi costruire partecipazione sui territori, e quindi una delle attività che i GAL sviluppano è quella di coinvolgere le imprese, coinvolgere i territori, coinvolgere le associazioni che stanno su quel territorio e utilizzare dei fondi che sono dei fondi dell'Unione Europea reali, perché sono un sacco di fondi che fino a qualche anno fa erano così quasi nascosti, no? E che poco a poco, grazie a queste realtà e alle persone, perché lo sappiamo che poi le istituzioni sono fatte di persone, i gruppi e le associazioni e le organizzazioni sono fatte da persone. E quindi con numerose persone che si sono avvicinate a queste proprio per la voglia di fare proposte, di fare di costruire alternative, perché effettivamente questi fondi ti danno la possibilità di costruire modelli alternativi in qualche modo, perché proprio l'approccio viene dall'Europa, non è quello tipicamente locale, ti faccio il progetto, mi pigli i soldi, cioè non è quello, no? Però ci sono tanti fondi. Allora si tratta di costruire sempre di più coinvolgimento su queste realtà e in queste realtà, perché questi fondi siano spesi realmente. Vi faccio un esempio: nell'area grecanica ci sono disponibili adesso da spendere 30 milioni di euro. 30 milioni di euro, e c'è incapacità in questo momento di spenderle proprio perché non ci sono le realtà, le associazioni, i gruppi che spingono perché questo venga fatto. Perché? Okay. Perché? No, sai perché? Perché c'è un'incapacità, l'abbiamo visto su tutti i livelli di progettazione, c'è un'incapacità da parte degli enti locali a capire, no, e a gestire. Ma soprattutto, al fondo, c'è che bisogna costruire una visione. E quella è la parte più faticosa. Non si può, secondo me, io almeno la penso così, bisogna prima costruire la visione, e su quella visione, che deve coinvolgere il più possibile e deve essere, tra virgolette, come dire, di un certo tipo. Non si possono fare più i lungomari, come diceva Alberto, no? Non si possono più i comuni, magari la progettualità più innovativa che hanno è che ti propongono di fare il lungomare. Non puoi fare il lungomare, magari, no, devi pensare a progettare delle cose che ti aiutano a contrastare in qualche modo i cambiamenti climatici o a limitarne gli effetti, quindi a fare delle azioni, devi avere una visione. Allora, ok? Faccio un'altra domanda. Però esistono e i fondi ci sono. Allora, perché una cosa del genere viene proposta di domenica mattina alle 12:30 con la presenza di soli addetti ai lavori, la maggior parte dei quali non capivano niente di quello che si stava dicendo e andavano solo per prendere dei punti, non so chi era architetto, chi aveva dei... aspetta, parlando con gli organizzatori su questa cosa, mi hanno detto che addirittura la cosa voleva essere fatta anche a porta chiusa. Io sono capitata per caso. Cioè, no, ma sono capitata per caso. È stata una botta di culo. Eravamo quattro persone, di cui io non c'entrava niente. E gli altri erano o ex proprietari di filande, o architetti, o interior design. Perché c'era anche l'interior design della Barilla, cioè con 10 persone sedute, inclusa me e mia mamma, che era là con me per caso. Perché se la cosa è di questa importanza e va creata una visione, in realtà poi si creano queste situazioni quasi in sordina? Cioè, è una sensazione mia, no, o è vero? No, ti rispondo, è vero, ed è una responsabilità condivisa. Da un lato ci sono i vecchi marpioni, ok? E dall'altro ci sono invece una gran massa di persone che è disabituata alla partecipazione. Per questo ho detto prima che momenti come questi sono fondamentali, perché i processi partecipativi ce li siamo dimenticati. Cioè, non siamo più abituati a partecipare, e chi gestisce in qualche modo queste operazioni lo fa per gli interessi, magari per interessi un po' privati o limitati. Allora io ribalto la cosa. Io dico, noi dobbiamo riabituarci alla partecipazione, dobbiamo essere capaci di dire la nostra e far venire fuori la visione. Perché E questo è il limite grosso, ma noi siamo disabituati, io lo vedo. Tu fai, facciamo un'assemblea e siamo 4, 5, cioè le persone più attente, magari, no? Allora, chi sta in questi posti, per esempio io lo faccio, e lo faccio in tutti i luoghi dove posso, chiamo la gente a partecipare, non faccio un passo se non attivo momenti di partenza, ma vengo da una lunga storia probabilmente che mi induce a fare questo. E non siamo tutti così. Noi cittadini ci siamo ritirati in qualche modo, ci siamo allontanati dalla politica, pensiamo che sia solo un affare, continuano gli affaristi a fare affari, ovviamente, perché io lo dico sempre, le risorse ci sono, non è un problema di risorse. Noi siamo andati via da questa terra, come diceva Alberto, abbiamo spopolato pure la città, non solo le aree interne, mandiamo via i nostri ragazzi, eccetera, però qui ci sono risorse infinite che si devono e dobbiamo apprendere a utilizzare, e dobbiamo saperlo fare coinvolgendo il più possibile quelli che sono rimasti per ovvie ragioni, ma anche quelli all'esterno. Cioè io ho apprezzato tantissimo, anche se sono lontano mille miglia da quello che pensa quella signora, però il turismo delle radici è una cosa che noi dovremmo incentivare. Noi dovremmo, il turismo di ritorno, no? Noi dovremmo essere capaci di fare questo, quelli che siamo rimasti, perché altrimenti saremo sempre di meno, saremo sempre, come dire, nelle mani dei 4 che tu hai visto, no? Che stavano magari decidendo di fare un buon progetto, perché no, però lontano da una visione comune e collettiva, perché manca da parte nostra l'educazione alla partecipazione, il convincimento che possa servire, l'altra cosa importante, e dall'altra parte, così ormai, ma anche tutto il PNRR, come si sta gestendo? Chi sa le scelte che fanno i comuni? Come, ne sapete nulla voi? No, ne sappiamo poco. Noi dobbiamo sapere di più. Non è giusto che lo sappia solo qualcuno. Dobbiamo pretendere, anche nella città di Reggio, io dico, no, noi che sappiamo che succede? Voi lo sapete, Nando, sai quanti soldi c'ha la città di Reggio? Ti dico la cifra e tu salti alla sedia. 800 milioni di euro da spendere da qui al 26. 800 milioni di euro. E non abbiamo capito, cioè non abbiamo idea. Ma il problema è che il 26 però i progetti devono essere finiti. E noi abbiamo una città arancione. No, noi abbiamo la città arancione, adesso vedete, in ogni angolo ci sono questi ritagli di rete. Per fare tanti progetti, tanti. Questi progetti però li hanno fatti nelle segrete stanze, non li hanno fatti come devono essere fatti, cioè con la partecipazione dei cittadini, scegliendo una visione. Lo sapete qual è il progetto più importante per la città di Reggio? Nando, lo sai tu qual è? Rosalba? Lo sapete qual è? Il Museo del Mare. Il Museo del Mare che costa 120 milioni di euro, che l'aveva fatto Scopelliti, poi messo da parte, adesso è l'unica cosa che si può fare in questa città, il Museo del Mare messo lì, non si capisce che cosa deve contenere, non si capisce a che serve, e noi continuiamo ad andarcene, i nostri ragazzi continuano ad andarsene via. Quindi è vero quello che dici tu, i soldi non sono un problema. Questo è che il mio dispiacere grande, no? Perché noi potremmo praticare tante iniziative, tanti progetti, far concretizzare l'idea di sostenibilità dello stretto, ma senza avere bisogno proprio di nessuno, né tantomeno di Salvini che ci fa discutere del ponte. Altre domande? So, magari le persone, i compagni di fuori si sono un po' seccati a sentirci parlare solo di Reggio. Però ecco, è importante, siete qui, conoscere un po' di questa realtà non vi fa male, insomma. Sì. Per chi resta in zona c'è un seminario, un incontro seminariale il giorno 22 che faremo allo spazio open che sta in via Filippini sullo stretto sostenibile, cioè ripigliamo un po' la parte costruence di stasera, non tanto la parte destruence, la critica al ponte, che fa parte però, è propedeutico a un incontro nazionale, perché vi accennavo prima che c'è una realtà italiana di situazioni dal basso che stanno praticando la conversione ecologica, non è che lo dicono, da tempo, sia in termini di tutela, sia in termini di produzioni materiali e immateriali sostenibili, e producono circa 30 miliardi l'anno, ogni anno, di euro. E allora noi facciamo insieme, tra gli attori promotori c'è la società dei territorialisti, che è una ricaduta socio-professionale di noi professori di urbanistica, sociologia, antropologia, eccetera, che abbiamo sempre lavorato con una dimensione di azione sul territorio, insieme ad altre organizzazioni abbiamo organizzato un incontro nazionale che si terrà a Roma, ospitato dai centri civici, dalla rete dei centri civici e sociali, di diverse di queste realtà che autoproducono dal basso sia tutela ambientale sia sostenibilità sociale. E in queste situazioni presenteremo questo discorso dello stretto sostenibile. Questo incontro nazionale è a Roma tra il 6 e l'8 ottobre, per chi può essere interessato. Contattandoci potete avere notizie sia dell'incontro locale sullo stretto sostenibile il giorno 22, sia dell'incontro nazionale dei territori autosostenibili, bioregionali autosostenibili che si muovono in tutta Italia, che terremo a Roma. Poi se ci sono altre domande, osservazioni, se no penso che ci possiamo ringraziare reciprocamente per la pazienza e l'attenzione. Va bene, ci saluto. Ci salutiamo qui. Va bene, grazie a tutti.